Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Controlli sanitari alle frontiere, calo della produzione, limitazioni della circolazione in alcune zone d'Europa e nel resto del mondo rischiano di provocare forti ripercussioni sulla circolazione delle merci. Gli autotrasportatori registrano infatti difficoltà di vario tipo nel continuare a svolgere il proprio lavoro, soprattutto nei trasporti internazionali. Per mitigare gli effetti della pandemia in atto su questo tipo di attività, l'IRU, l'Unione Internazionale dei Trasporti Stradali, ha chiesto una cabina di regia unitaria per armonizzare gli standard di sicurezza degli autisti e garantire allo stesso tempo la permeabilità delle frontiere. Attualmente, infatti, appare piuttosto complicato orientarsi fra le differenti misure applicate dai diversi paesi. Alcune più rigide, altre meno. E intanto, per restare informati sui provvedimenti in vigore nei singoli stati, è possibile consultare il sito dell'organizzazione, dove sono pubblicati gli aggiornamenti nazione per nazione in tempo reale. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo, come ricordiamo ormai da settimane, in prima linea in questo momento nella vera e propria guerra contro il coronavirus, impegnato nella distribuzione di beni di prima necessità, ma anche di articoli sanitari in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Non è un caso se utilizziamo questo riferimento, perché purtroppo, almeno per quanto riguarda in Europa, le regole che segnano questo mondo per quanto riguarda la circolazione delle merci sono ben diverse da paese a paese, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Umberto De Pretto, segretario generale dell'IRU, l'associazione mondiale che raggruppa le associazioni di circa 100 paesi in 5 continenti, per cercare di capire appunto come si sta muovendo il mondo delle merci in Europa e appunto nel mondo. Buongiorno De Pretto, grazie per essere qui con noi. Grazie Massimo. Allora, cominciamo con la vostra richiesta avanzata ormai da tempo alle istituzioni, in primis quelle europee, di un'armonizzazione delle regole che consentono appunto alle imprese di autotrasporto di circolare all'interno dell'Unione Europea, sapendo ed avendo ben chiaro qual è il meccanismo che gli consente di distribuire le merci. Cosa sta succedendo in Europa? Sì, il grande problema è che abbiamo questo problema che è un problema globale, e allora un problema globale deve avere soluzioni globali. Non è possibile che abbiamo un paese e ogni paese fanno che cosa vogliono. È così come noi trasportatori andiamo in un paese e non sappiamo che sono le regole in questo paese. Allora noi stiamo lavorando e proviamo di lavorare con l'ONU per trovare una soluzione dove possiamo avere una soluzione globale, così tutti fanno la stessa cosa, però non è il caso. Oggi ogni paese ha le proprie regole. Allora quando noi andiamo, anche qui in Europa, anche con la Commissione, che loro hanno detto mettiamo dei green lanes, dei viali verdi, così possono passare i camion, è bello come concetto, noi vogliamo questo, però non succede, perché ogni paese fa il proprio business e così ognuno ha la propria politica, e così non è affatto armonizzato, e così crea chaos dappertutto. Allarghiamo un attimo anche la nostra visione a quello che succede nel resto del mondo. Quali sono i paesi che in questo momento stanno imponendo le maggiori restrizioni? Se guardiamo veramente i più estremi, dove hanno chiuso le frontiere, dove nessuno va dentro o fuori, vediamo c'è il problema Afghanistan, Turkmenistan, Pakistan e certo anche in Iran, però ci sono anche altri paesi dove hanno chiuso le frontiere a dei vicini, però non tutti i vicini, di cui parlo della Turchia, Tagikistan, Kyrgyzstan, China e Uzbekistan. E in Turchia adesso questo è un grande problema per l'Europa, perché loro hanno detto ci sono 66 paesi dove loro non possono entrare, o se vengono devono restare in quarantine per 14 giorni. Questo è impossibile per un camion che arriva con il conduttore e che resta lì 14 giorni, non è possibile. Allora stiamo lavorando con la Commissione, con l'ONU e col governo in Turchia per lasciare che i merci passano. Lei diceva prima c'è una trattativa in corso con l'Unione Europea proprio per favorire l'armonizzazione e la libera circolazione delle merci. Come sta andando questa trattativa? Bene e male. Bene che ci ascoltano, male che i paesi loro fanno che cosa vogliono, questo è il problema. La Commissione è simpatica in questo senso, che loro sanno che ci deve essere una risposta globale e armonizzata, almeno al livello dell'Europa. Però non esiste, ogni paese sta facendo la propria storia e così noi abbiamo i problemi. Allora invece di lasciare i merci che passano, adesso prima, come tu sai molto bene Massimo, non c'erano frontiere, adesso ci sono frontiere e adesso i camion devono passare delle frontiere. Abbiamo i tempi di attesa, qualche volta anche 60 ore per passare, e non è possibile. Abbiamo i merci perishables, le merci che con il tempo non ci sono più. In Italia ci sono tante merci, se metti sul camion devono arrivare subito, se no puoi buttare tutto via. E con questi problemi sarà un problema enorme, però enorme per l'economia. Proprio a proposito di questo diverso atteggiamento di cui sta parlando lei, dei singoli paesi all'interno dell'Unione Europea, ma anche nel resto del mondo, c'è da considerare adesso che stiamo andando verso una diversificazione anche delle situazioni. In Italia ci stiamo avviando, per fortuna, ad una fase decrescente del contagio, altri paesi invece si stanno approcciando solo adesso al problema. Come farà il trasporto, il mondo della movimentazione delle merci a rapportarsi con tutte queste situazioni così diverse? Sul lato dei merci dobbiamo pensare adesso, tutti i negozi sono chiusi, tutto, solamente si può comprare cibo e medicina, basta. Allora speriamo quando siamo dall'altra parte del peak che possiamo vedere che l'economia comincerà e con questo la grande domanda adesso è quando. Sarà in 2 settimane? Sarà in 2 mesi? Chissà. Adesso non sappiamo ancora quando ci sarà questo shift dove l'economia adesso ricomincerà. Abbiamo visto in Cina che sta cominciando molto molto lentamente, però sta ricominciando. Allora vediamo che c'è possibilità. La cosa importante adesso è preparare per questo momento. Sicuramente dobbiamo guardare e trattare la gente, questa è la cosa più importante, però dobbiamo già preparare adesso per quando ci sarà il sviluppo, e per questo dobbiamo assicurarci che le ditte che esistono oggi esistono domani. Se non ci sono ditte, se non ci sono trasportatori, Come possiamo portare l'economia? In Italia e probabilmente anche in altri paesi europei c'è una forte presenza di piccole e medie imprese che in questo momento sono quelle più deboli rispetto a questa problematica. È possibile intervenire in qualche modo al loro supporto? Massimo, non è solamente un problema o una realtà in Italia, dappertutto nel mondo, fra 75 a 90% di tutte le ditte di trasporto hanno solamente da 1 a 5 camion, allora è lo stesso dappertutto nel mondo. Allora, che cosa noi diciamo ai governi è: quando voi mettete le finanze a disposizione per le piccole e medie ditte, è importante di cominciare a assicurarci che i trasportatori sono i primi che hanno questa assistenza finanziaria, perché se loro non esistono, tutto il resto non importa, perché anche se produci qualcosa resterà lì. Allora, i temi più importanti adesso sono i trasportatori, così quando l'economia ricomincia ci saranno i trasportatori per trasportare i merci, perché se no, anche se in nord Italia o sud Italia cresci qualcosa, produci qualcosa, se resta lì serve a niente. Abbiamo bisogno dei trasportatori come mai. L'unica cosa, diciamo, una storia bella che viene di tutta questa miseria è che finalmente la gente comprende quanto importante è il trasporto su gomma. L'unica cosa che posso dire che è positiva di tutto di questo, finalmente la gente comprende quanto importante sono i camion e i tir. Per avere il cibo, per avere la medicina. Senza di noi, senza il trasporto su gomma, il mondo si ferma. Bene, ringraziamo e salutiamo allora Umberto De Pretto, segretario generale dell'IRU, che è stato con noi oggi e ci ha raccontato come sta affrontando il mondo, come stanno affrontando i diversi paesi nel mondo l'emergenza da un punto di vista dei trasporti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasporti.